in cui tra l'altro nel video compare un giocatore della nazionale greca che non mi chiedete il nome perché è un po' troppo difficile, ma Dimitris Salpigidis, scusatemi se non ho la pronuncia giusta. Ci andiamo a sentire Gol Locomondo. Eccoci qua, allora dopo essere passate dal calcio proviamo a passare a un altro gioco molto diffuso, più diffuso in tutto il mondo in realtà, anche se è un gioco insomma di svago soprattutto per noi quando siamo in estate, tuttavia cose così, e invece è uno sport maggior diffuso in tutto il mondo ed è anche una specialità olimpica, è il tennis da tavolo, anche detto ping pong, e andiamo a sentirci una canzone di Rino Gaetano che lo usa un po' come se fosse una metafora. Vabbè, ce l'andiamo a sentire. Rino Gaetano, ping pong. Thank you. cerca notizie più costose, più fresche, più narrate, o forse chissà perché viene l'estate. Adesso un sagrestano cambia sesso, poi tira sfida la Caligaris, spaccio di droga alla stazione, e c'è qualcuno che si imberta in tasca un milione. Adesso andiamo su un altro sport, parliamo delle biciclette, ci andiamo a sentire i Queen con Bicycle Race. Bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. You say black, I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is cambiamo ancora, andiamo a parlare, no, in realtà mettiamo Kung Fu Fighting, che ricordando tutti quelle arti marziali che sono anche degli sport, ma hanno in più una filosofia dietro, quindi andiamo a sentirci Kung Fu Fighting. Eccola. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Everybody knew their part, from a fainting to a slip and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as light. E adesso andiamo a fare una chiamata a Altea, che è diventata campionessa di assoluti di pugilato 54 kg. Proviamo a vedere se ascoltare la sua esperienza. Intanto mettiamo Bob Dylan Hurricane, nel frattempo chiamiamo. Non è vero, ti abbiamo mentito, perché c'è un'altra canzone. Sì, se non c'è, non ci piace. Quindi te richiamiamo, ok? No, vedi. Sì, te richiamo, perché non è vero. Ciao, ciao. È perché sono 8 minuti di canzone. Non abbiamo detto. Non sta neanche partendo la canzone. Spero che sia un po'. No, è perché. Sei tu o non so? No. Senti? Adesso sì, ti sento. Ah, ok, allora finalmente siamo arrivate con questa, insomma, raccontaci un po' quella che è la tua esperienza. Ok, la mia esperienza. Inizio 4 anni fa con questa disciplina, ovviamente tramite amici, sapendo che c'è questa palestra popolare che fa pugilato, comunque sport a basso prezzo, che quella è la cosa principale, diciamo, fare sport e non andare nella palestra, nella solita palestra di fighetti dove paghi 60 euro per fare 4 stronzate. E niente, quindi inizio così, mi appassiono ed eccomi qua adesso a che ho vinto un torneo con sacrificio, tanto sacrificio, visto che lavoro e ho altri impegni. Eccomi qua. E niente, raccontaci un po' il tuo titolo, come è andata, insomma, dove hai combattuto, con chi hai combattuto, come è stata la Ok, finale. Sì. Niente, siamo andati, questo torneo l'hanno fatto in provincia di Cuneo, a Barge, dove si sono incontrate 42 atlete di tutte le categorie femminili e dai quarti di finale, semifinali e finale. Io ho incontrato altre 3 ragazze del mio stesso peso, bravissime, e niente, la prima credo venisse dal Piemonte, la seconda dall'Emilia e la terza dalla Puglia, quindi diciamo che sono fatta tutta l'Italia dal nord al sud. E niente, un'esperienza bellissima, a parte la vittoria in sé, diciamo che è tutto quello che c'è dietro all'incontro, tutta la preparazione atletica, la preparazione psicologica in primo luogo, trovare il tempo di ritagliare uno spazio per tutto questo. Alla fine la vittoria è stata proprio arrivare là. E poi la vittoria in sé, il fatto che ho battuto queste altre ragazze, sì, è bellissimo, però diciamo che viene un po' dopo. E niente. Pronto, Altea? Mi senti? Sì? Sì. Possiamo fare una domanda, perché ovviamente la box è considerato, diciamo, da tutti uno sport maschile. E anche per questo penso che, come tutto lo sport femminile, non abbia neanche, sia sui giornali che nelle palestre, una grande diffusione. Come ti sei ritrovata appunto in questo panorama sportivo, e se ci puoi dire qualcosa rispetto a... Guarda, ho lottato tanto anche per questo, nel senso... ho lottato a farmi accettare come pugile donna, in primo luogo nella stessa palestra, perché ovviamente è vero, viene considerato ancora come uno sport, una disciplina prettamente maschile, come tanti altri sport dove predomina purtroppo questa cultura maschile di vedere la competizione soprattutto. Però facendomi valere come atleta, lì poi diciamo questo scoglio dell'essere donna è stato diciamo combattuto, ecco. Però ecco, è così. Non viene visto come uno sport femminile, non viene neanche visto dalla federazione pugilistica. Cioè sì, ci sono pugili donne, ci sono atlete donne, però poi combattono, ma non vengono finanziate, non vengono pagate come vengono pagati gli uomini, tutto quanto viene pagato da noi. Se noi vogliamo fare lo sport, se noi vogliamo qualsiasi cosa vogliamo fare, la donna paga molto di più di quanto paga l'uomo. Okay, a me dovrebbe arrivare una borsa di questa vittoria, giusto? Sicuramente non sarà come una borsa maschile, no? In senso, a me mi daranno, messa, 500 euro forse, non lo so, a un maschio, se avesse vinto un maschio, gli danno 1300 euro, ho capito? Però noi abbiamo tutta la gloria del mondo. Infatti ti volevo fare ancora tanti complimenti, grazie per aver, insomma, testimoniato questo tuo percorso che ti ha portato poi a vincere. Grazie. E niente, insomma, continua così, ti seguiremo da questo momento in poi, ma comunque lo facevamo anche prima, perché insomma, grazie, siamo anche noi, insomma, immischiate in quello che è lo sport popolare, alcune di noi, è così. E quindi niente, ti ringraziamo, andiamo avanti con la musica e a parlare, sì, di, senti, sport. Vi invito semplicemente alla quarta maratona della resistenza che facciamo, che organizza la strada. Okay. Vi invito, se volete venire. Quando è? Va bene. Dici il giorno. Ah, il giorno, scusa, è il 9 ottobre, alle 4 in Piazza Sauli, sta proprio sulla strada. Va benissimo, saremo presenti. Va bene. Ciao. Ok, ciao ciao, grazie, ciao ciao. But one time, he's gonna be the champion of the world.

Allora, si parla di sport, come rimanere indifferenti al match mondiale che si sta svolgendo in Nuova Zelanda. Questi sono i mondiali di rugby, questo bellissimo, bellissimo sport. E niente, sono iniziati il 9 settembre e finiranno il 23 di ottobre. Sono divisi in 4 gironi che si chiamano pool, e l'Italia gioca nel pool C. Le partite svolte già sono quelle di Australia-Italia, Italia-Russia, e le prossime saranno Italia-USA e Irlanda-Italia. Allora, vediamo i nostri campioni, insomma, non è che sono stati brillantissimi, soprattutto nella prima partita, però insomma vedremo se ce la faremo. Insomma, poi questa cosa del... vogliamo introdurre questo sport il rugby, perché vogliamo parlare di una realtà che c'è a Roma ormai da anni, che è questa realtà che si chiama Orraz Rugby Roma. E niente, intanto la introduciamo con una canzone degli Atarassia Group, che si intitola proprio Orraz Rugby Roma. Gladiatori, maglia bianco-rossa, sogni, sangue e cuore di un solo colore, Spartaco corre verso la gloria, verso un'altra meta, verso la vittoria. Ecco qua, volevamo spendere due parole in più per quanto riguarda questa squadra. Questa è una squadra sport popolare e soprattutto autogestito. Ci si gestisce a livello orizzontale, quindi ogni decisione è presa dall'assemblea, tanto che abbiamo fatto una scelta precisa per quanto riguarda gli allenamenti. Non abbiamo un allenatore, non spicca mai una figura unica, ma esiste il gruppo tecnico che si confronta, parla con la squadra e insomma e decide gli allenamenti e quello che è migliore per insomma per la squadra tutta. E quello che vogliamo ricordare è che la stagione è iniziata e tutti e tutte sono invitate a venire ad allenarsi all'ex cinodromo della capitale ad Acrobax. Ci si allena il martedì, il mercoledì e il venerdì per quanto riguarda la squadra maschile e il mercoledì e il venerdì per quanto riguarda la squadra femminile, dalle 19.30 alle 21.30. E niente, adesso vorrei fare... abbiamo parlato della Coppa del Mondo, della Coppa del Mondo maschile che si sta svolgendo adesso, mentre vorrei anche spendere due parole per quanto riguarda la Coppa del Mondo di rugby femminile, perché vabbè, a parte che esiste il rugby femminile, esiste da insomma molto più ufficiale dal 1998, la cosa curiosa è che si sono tenute quattro tornei del mondo dal 91 nel 94 che non sono stati, cioè nel senso non sono stati riconosciuti all'inizio da quella che era la Confederazione Internazionale del Rugby, ma soltanto il 98 è stata riconosciuta come ufficializzato come titolo. Nel 1990, che è stato il primo torneo, hanno partecipato soltanto quattro squadre, mentre gli altri, le prime edizioni in quelle ufficiose non mi ricordo più che cosa stavo dicendo, scusate. Comunque era questo per sottolineare il fatto, come ci raccontava anche l'atleta che abbiamo sentito poc'anzi, che questi sono sport che sono per antonomasia sono sport maschili e le ragazze si approcciano poco a questi tipi di sport, invece ci sono realtà che lo praticano, che ci credono molto e si rivendicano anche il fatto, perché insomma poi conosco bene le Orrez Girls e sono molto fiere di portare avanti questo sport anche un po' a pesco a tassela, che è sempre buono. E niente, adesso mettiamo una canzone che introduce anche un po' quello di cui parleremo più tardi, che è Hooligans Dangerous dei CCCCP. So esattamente come ci aveva detto prima l'altra mammatrona, adesso andiamo a introdurre un altro tema legato allo sport, legato al calcio, che è quello dei tifosi. Quindi come non ricordare i tifosi per eccellenza, che gli hooligans. Quindi gli hooligans, che si sono, in realtà è un movimento, perché possiamo definirlo un movimento culturale, che non aveva non era solamente una violenza come l'hanno definita poi appunto i vari giornali inglesi del tempo, come la stessa Thatcher, che poi è stato represso duramente, però aveva in realtà uno spirito più popolare, e in particolare mi viene in mente un libro, quello di Cass Pennant, che era proprio uno degli omoni che era al seguito del West Ham United e faceva parte del Intercity Firm, una delle bande Intercity, cioè che riprende quel treno che andavano a prendere tutti a prendere tutte le bande che stavano nel appunto, che tifavano per il West Ham, che in quel tempo erano anche uno contro l'altra. Cass Pennant, è interessante il libro perché fa vedere un po' qual era, come funzionava, quindi che non era solamente una banda che andava contro un'altra, ma c'era una gerarchia e un'organizzazione particolare che andava addirittura anche a rintracciare le frange dei più giovani. Quindi c'erano gli under five che facevano parte anche del... La cosa particolare è che regalavano dei biglietti da visita, lasciavano ai doloranti e feriti tifosi avversari dopo gli scontri, e questi appunto, questi semplici biglietti rettangolari avevano questa scritta a caratteri cubitali: congratulazioni, appena incontrato la ISF, quindi la Intercity Firm. Ora ci andiamo a sentire degli Hepcat, che cantano proprio una canzone su che si chiama Hooligans, e poi ne parliamo un altro po'. Yes, we were more than friends. My blue skin, get the Ok, dopo aver sentito gli Epcat con Hooligans, andiamo a sentirci la una, mi viene la sigla, però non è la sigla, diciamo la una canzone dedicata al San Paoli, che è una tifoseria, una delle poche tifoserie che si definisce antifascista, antirazzista e antisessista soprattutto, perché sappiamo di molte tifoserie che hanno anche partecipato ai mondiali antirazzisti che si fanno ogni anno, e non tutte hanno il coraggio, diciamolo, di definirsi antisessisti, perché poi si sa che tra i tifosi i cori che vanno di più sono quelli contro le madri e dei vari arbitri e dei vari giocatori avversari. Le sorelle, le cugine, tutte quante. Quindi appunto anche il coraggio di fermare, immagino che si fermino anche molti cori che vengono fatti nella tifoseria e vengono... anche appunto è una dei temi che viene affrontato. Ci hanno anche detto, incontrando uno dei tifosi del San Paolo, che ci sono anche molte donne che ne fanno parte. Quindi adesso ci andiamo a sentire Talco, dedicata al San Paoli, e ovviamente proprio la dedichiamo anche noi a questa tifoseria, e la facciamo con la versione tedesca. An eine Straßenrand, ein verrückter Wettstreit gegen den Voran der Fremdenfeindlichkeit. Gemeinsamer Gesang und Lieder folgen viel, gesungen von Chören, beladen das Lebensfeld. Sie tanzen auf der Runde, Gloria im vergangenen Tag. Kinder der Erinnerung, Piraten aus Ampalen. Sie tanzen auf der Runde, Gloria im vergangenen Tag. Kinder der Erinnerung, Piraten aus Ampalen. Gegen Phrasen und Agonie, aus der Hülle wie der erste Blut an der Peripherie. Gesängen beladen des Lebens viel, die fröhliche Folge der Ränge des St. Pauli. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten des St. Pauli. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten des St. Pauli. Gegen den Vorgang der Fremdenfeindlichkeit. Gesängen beladen des Lebens viel, in fröhlichen Volver der Engel aus Ampalle. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten aus Ampalle. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten aus Ampalle. Sie tanzen auf der Runde, Gloria in Vergangenheit, Kinder der Erinnerung, Piraten aus Ampalle. Sie tanzen auf der Runde, Matrona conclude qui la sua puntata. Ci ritroviamo come al solito il prossimo giovedì, sempre dalle 12 alle 13, su questa frequenza 87.9 Radio Onda Rossa. Chissà con quale altra puntata, con quale altro tema, lo scoprirete solo vivendo. E ricordiamo che abbiamo anche un blog, mamatron.noblogs.org. ovviamente poi si possono trovare le registrazioni anche sul sito www.ondarossa.info. Mi raccomando, fate sport.